in primo piano. Venerdì 28 gennaio, parto dal Sole 24 Ore, il Giappone declassato. È Standard & Poor's che ha abbassato il rating di Tokyo e questa è l'apertura del quotidiano finanziario, mentre è ancora una valanga di carte, intercettazioni, toccacciamenti e particolari piccanti su tutti gli altri giornali. Caso Ruby, primo no ai PM, questa è l'apertura del Corriere. Per Repubblica, Ruby nelle carte i ricatti a Berlusconi. Per La Stampa, Berlusconi in piazza contro i giudici. Per Libero, siccome c'è una nuova minorenne, Cribbio, un'altra minorenne, e dunque la didascalia, il titolo sopra è diventato da la patata bollente a patatine bollenti. Il giornale Fini, vergognati e vattene, lo scandalo di Monte Carlo. Per l'Unità c'è la foto di Iris Berardi, questa che era minorenne all'epoca delle frequentazioni ad Arcole, la nipote di Lula, perché è brasiliana di origine, giocando ovviamente sulla nipote di Mubarak. Le segnalazioni da cui voglio partire, la prima è di Libero, a pagina 15. Il prete caccia gli accattoni. La carità non è un dogma. Caterina Mania ci racconta di Don Cornelio Bossa da Vigonza, paese alle porte di Padova, che ha deciso di bandire l'accattonaggio dalla sua chiesa e tra i suoi parrocchiani. Non diamo questo tipo di elemosina, ha detto il sacerdote durante le celebrazioni domeniche. Perché, ha detto Don Cornelio, i poveri veramente tali sono assistiti dalla Caritas in varie forme, come ho illustrato anche nell'ultimo bollettino parrocchiano. I poveri sono quelli che si danno da fare e non ce la fanno, quelli che chiedono aiuto. Io sono il primo ad aiutare chi ha bisogno, ma non chi chiede soldi, ma chi chiede cibo, vestiti o altra assistenza. Va ricordato poi che l'accattonaggio non è ammesso dalla legge, quindi è passibile di punizioni sia chi mendica, sia chi i soldi li dà. L'omelia del parroco: povero è chi non ce la fa, non chi non ci prova neanche, e dunque caccia gli accattoni. Avviene, scrive Libero, a Vigonza, in provincia di Padova. Mentre l'altra storia che voglio raccontare viene da ben più lontano, la trovate su tutti i giornali, ma è raccontata come al solito con la sua penna stilisticamente perfetta da Domenico Quirico sulla Stampa, pagina 17. Uganda, ucciso Kato, il leader dei gay africani. E la trovate a pagina 17, nome e indirizzo pubblicati insieme ad altri 100 su una rivista col titolo Impiccateli. Scrive Domenico Quirico: l'assassino, o meglio il mandante, ma c'è differenza? È noto, non si nasconde, anzi ne ha le dita inchiostrate della prova e della firma. Sono gli illuminati redattori della rivista Rolling Stone, non quella americana, per carità. Questa è ugandese, arriva in edicola singhiozzo, ma a scopi chiari e canaglieschi. Nell'ottobre dello scorso anno ha pubblicato una prima pagina, scritta, riscritta e perfezionata all'istigazione a delinquere. Il titolo: Hang them, impiccateli. Alla corda del linciaggio, a furor di popolo, erano così vigorosamente proposti i militanti delle lotte omosessuali del paese, considerato da almeno 3 presidenti americani, Clinton, Bush e Obama, come il modellino della loro Africa, del presente e del futuro. Fa nomi e cognomi. In quel numero assassino, infatti, c'erano foto, indirizzi di una ventina tra i più noti difensori dei diritti delle minoranze sessuali del paese, sottoposto alle ruvide attenzioni del dittatore modernista Museveni, un altro, l'ennesimo. Una di quelle fotografie ieri è diventata, e non certo per combinazione, un cadavere, l'ennesima vittima di un'omofobia grande come il continente, una delle sue non ultime vergogne. David Kato era predestinato, era dunque su quell'elenco, non si nascondeva come un colpevole, anzi aveva ottenuto un'ingiunzione dei magistrati dell'alta corte proprio contro l'abitudine di indicare sui giornali nomi, facce, indirizzi degli omosessuali definiti influenti. Ieri un uomo è entrato nella casa di Kato, una quindicina di chilometri dalla capitale Kampala, e lo ha picchiato a pugni, calci e legnate. Adesso la polizia fa la prudente, nega un legame diretto, prove certe, tra la militanza della vittima e il suo brutale destino. Si intravede la lercia allusione. Uno così moralmente malvissuto, prima o poi, doveva finire male. E questa è la storia appunto di David Kato, 43 anni, che lavorava per, si batteva in Uganda per la lotta per i diritti degli omosessuali. È stato ucciso ieri ed è una delle persone indicata con tanto di nome, cognome, foto, indirizzo su questa rivista ugandese. Uganda, ucciso Kato, il leader dei gay africani. Lo trovate sulla stampa, firma di Domenico Quirico, a pagina 17, ma lo trovate come storia raccontata, devo dire, anche da altri quotidiani oggi.